Bentornati o benvenuti a tutti, amici e amiche carissime, a questa 14ª puntata del ciclo di catechesi dedicate alla nostra ormai cara tenera amata. Ci siamo lasciati la volta scorsa, la puntata precedente, con un nuovo viaggio, o meglio, un nuovo approfondimento, dettagli ulteriori di questa quinta dimensione che abbiamo visto costituire un ulteriore trascendentale dell'essere. Ogni ente, in quanto ente, è uno vero buono, è bello, ma è anche eterno. E Tenera Amata ha cominciato a introdurre meglio Riccardo dentro questo mistero, nonostante le reticenze e le resistenze, evidentemente, della sua intelligenza che fa difficoltà a percepire questa realtà. E quindi vedremo che oggi siamo nel capitolo quindicesimo del libro. Tenera Amata riprende e anzitutto cerca di continuare ulteriormente ad aiutare, ecco, l'intelletto di Riccardo a fare questo step, anche se poi gli spiega, dice: guarda, se non ci arrivi, non ti preoccupare. Questa non è una cosa necessaria per la salvezza, è un di più che il Signore ti sta donando in questo momento. Quindi, se non ci arrivi, pazienza. Tanto l'importante è che, e questo sarà un'indicazione che sarà utile anche per tutti noi, no? Cioè, su tante cose che non ci arriviamo, quando non sono essenziali alla salvezza, io tante volte mi sento oppure mi trovo costretto ad esortare qualche anima sotto questo punto di vista. Dico, guarda, non si sta facendo troppe domande di cose che sono più grandi di noi. Ecco, la cosa fondamentale è che diventi santo, perché poi un giorno che andrai in paradiso, tante cose, tante curiosità, anche legittime che tu hai, ma che magari non si riescono a soddisfare in questa vita, saranno poi dal Signore, esaudite. Questa è sempre la cosa principale e più importante su cui dobbiamo far convergere la nostra attenzione. Quindi l'importante è arrivarci in paradiso. Poi lì sapremo anche molto altro rispetto a quello che il Signore comunque ci dona. Ci gustiamo però queste cose, perché ovviamente premessa fondamentale è il cuore aperto, e vorrei anche fare una piccola premessa, che ogni tanto commenti o cose. Allora, io non sono uno scienziato, d'accordo? Quindi quando mi trovo a contatto con dei concetti scientifici che Tenera Amata affronta, come dire, cerco di anch'io con difficoltà di assimilarli, di interpretarli alla luce delle limitate condizioni e cognizioni scientifiche che ho, perché purtroppo, anche se mi sarebbe tanto piaciuto, non ho approfondito né la fisica, né la chimica, né la biologia, né la matematica. L'ho spiegato la volta scorsa. Quindi non è molto utile, cioè lo capisco, ma che mi si venga a scrivere nei commenti o in altre cose: guarda che questa cosa non l'ha detto lo scienziato X, l'ha detto lo scienziato Y, non è proprio così, lo so già per prima. Quindi non, cioè, se dovessi prima di fare questo ciclo di catechesi acquisire tutte le competenze scientifiche necessarie per poterle spiegare adeguatamente, ci metterei 50 anni per farlo, perché non mi piacerebbe tanto riprendere tante cose, ma non c'ho il tempo, non c'ho. Quanto mi piacerebbe andare a studiare la biologia molecolare, gli atomi, l'astrofisica, le galassie, gli universi, cioè non c'è il tempo, non ce l'ho, quindi c'ho le cognizioni, grazie a Dio, il Signore mi ha lasciato qualche reminiscenza, perché con tutto il bombardamento a cui sottopongo le mie poche vere facoltà spirituali, il mio cervelletto, già è troppo quello che mi ricordo, quindi è evidente che su questo sarò lacunoso, ecco, quindi, e molto imperfetto, e probabilmente non si riusciranno a risolvere tutti quanti i quesiti, però non è il mio ambito di competenza. Ciò nonostante, mi sembra il caso di tentare e procedere con una lettura, con un approccio che cerchi un po' di raccapezzarsi qualcosa in questo bellissimo mondo. Basta adesso con le chiacchiere, cominciamo la lettura del 15º capitolo. Parla, tenera amata. Vedo nella tua mente disse Teneramata con accento di rassegnazione, che fai molta fatica ad astrarre l'idea dell'eternità degli esseri. È che pensi tutto in funzione del momento presente, del tempo normale della Terra. Su, sforzati! Il tuo corpo integrale, e non soltanto quello che possiedi attualmente, si conserva intatto nella grandiosa bottega del tempo passato. Mi dispiace, Teneramata. Sono molto stupido, poverino. Non preoccuparti, mi disse affettuosamente. Tutti soffriamo di questo acciacco. Tuttavia, per la tua salvezza eterna, vedete, non hai bisogno di conoscere l'essenza del tempo né dell'eternità creata. Ti bastano la fede e le opere di amore e di carità. Però insisto, l'anima umana permane unita al suo organismo totale. Corpo biologico di embrione, feto, neonato, bambino, adolescente, giovane, adulto e anziano. Otto ce ne sono, mica uno. Quello che accade non si annichila. Sussiste eternamente nello spazio-tempo e conserva l'atto di esistenza. Ripeto, primo step, primo pit stop. Questi concetti, se uno ha una adeguata idea filosofica e teologica di ciò che Dio è, sono ineccepibili, è impossibile, ma questo lo sappiamo anche da quello che Luisa Piccarreta ha ricevuto come rivelazione da Dio sulla divina volontà. Non è possibile che una cosa che in qualche modo sia coinvolta con la divina volontà cessi di essere. Ora, amici cari, il fatto stesso che io adesso sto parlando, questo per chi non conosce gli scritti di Luisa Piccarreta, chi ascolta lo invito ovviamente a farlo. A parte il fatto che prima di Luisa Piccarreta, queste cose le ha dette San Tommaso d'Aquino, quindi io faccio riferimento a lui. Allora, tu che mi stai ascoltando, ci sono e sto facendo quello che sto facendo adesso per due motivazioni principali. Primo, perché Dio mi ha creato. Ha creato la mia anima, che si è unita a questo corpo che biologicamente io ho preso da mio padre e da mia madre. Ma non è finito qui. Io adesso sto parlando e sussisto nell'essere perché? Perché la provvidenza di Dio, così si chiama tecnicamente in teologia, che non è la provvidenza che noi conosciamo, dire Dio provvede, nel senso che non c'ho niente da mangiare, mi farà trovare qualcuno che mi farà l'elemosina per farmi mangiare. Questo è come dire, un concetto corrente di provvidenza, ma la provvidenza universale di Dio non è altro che la sua operazione ininterrotta, attenzione, di conservazione nell'essere di tutto ciò che è. Cioè, non è che Dio mi ha soltanto creato, Dio mi sta mantenendo nell'essere tutto quello che faccio, perfino quando pecco. Adesso lo spiego in che senso. È possibile per questo atto di mantenimento di me che Dio fa nell'essere, altrimenti io non è che morirei, ritornerei nel nulla da cui sono uscito. Ora, il problema è questo qui, che quando Dio dà l'essere a qualcosa, non lo ritrae mai. Per questo che il diavolo ancora sussiste e non è distrutto da Dio. Perché una volta che gli ha dato l'essere, stop. Cioè, una creatura può corrompersi, può diventare la più bestia che rara che esista, ma l'essere lo avrà sempre. Capito? Quindi è ovvio che l'atto che io sto facendo adesso, le parole che sto dicendo, le sto dicendo in quanto la divina provvidenza mi sta mantenendo nell'essere, quindi è coinvolto Dio in quello che sto dicendo, non nel senso che approva tutto quello che dico, perché potrei anche in questo momento dire una parolaccia, e certamente Dio la parolaccia non la approva manco per niente, quello è un peccato quello lì, quindi cioè, Dio quella cosa lì la odia, non la detesta, ma io ho potuto dire quella parolaccia. Non le dico le parolacce, sto facendo un esempio tanto per dire, Guai, cioè se un prete dice le parolacce, per quanto mi riguarda, guai, anche un laico, però un prete ha doppia ragione, soltanto perché sono mantenuto nell'essere. Ora, come vedremo più avanti, questo atto è un atto cattivo, per cui nella mia eternità creata, se io sarò un beato, non lo ritrovo questo atto cattivo, perché la misericordia di Dio lo cancella. D'accordo? Andremo più avanti perché già cominciano a farmi un sacco di domande, anche molte persone che fanno domande, cioè i moderatori anche su dei commenti su YouTube, poi si impazziscono. Ha pazienza, perché andando avanti nella lettura, molte domande che vengono fatte anche al termine della diretta, poi troveranno risposta. Bisogna avere pazienza. Procedo, eh. Se perdura vivente il mio organismo integrale con tutti i miei corpi materiali, dice Riccardo, perché non posso vederli? Te lo spiegherò con un esempio. Allo stesso modo, come in un'elica a pieno regime di giri, è impossibile distinguere le pale. E appena si percepisce un tenue disco a causa della grande celerità, così nell'istante attuale non si riesce a vedere in modo isolato le materie, gli avvenimenti e le circostanze che costituiscono l'organismo umano totale. Si vede soltanto il corpo che corrisponde ad un determinato momento presente. Tuttavia, se diminuisce notevolmente la velocità, come succede in questo paratempo, allora riesci a vedere il tuo corpo di ragazzo. Molto presto constaterai questo che ti dico. L'apparente contraddizione tra il tuo organismo di adulto di fronte al tuo corpo di bambino è dovuta alla falsa immagine che ti formi nelle cose a causa del legame della tua coscienza col momento attuale. Questo ricorre come un mantra. Allora, faccio un altro step. Dice, perché io non posso percepire la realtà che il mio corpo di bambino sta sussistendo. Dice perché è bellissimo questo esempio. Se tu vedi un'elica che gira a tutto volume, tu non vedi le pare dell'elica. È un esempio molto molto bello, no? Tutti quanti l'abbiamo visto. Pensiamo a quando girano le turbine di un aereo. Se sono ferme si vedono, no? Tutte quante quelle cose, quelle zigrinature. Ma se il reattore comincia a girare, con il reattore con la velocità a cui gira, non vedi proprio niente, non vedi. Però ci stanno. Allora, se tu le mandi al rallentatore, quindi se tu diminuisci, allora, se io riprendo con la cinepresa un'elica che gira e poi la proietto al rallentatore, quindi fortemente rallentata, vedremo che queste eliche stanno girando, ma devo andare molto al rallentatore. Ora, noi non abbiamo la possibilità di azionare il rallentatore. Capite? Fino a quando siamo in questa vita mortale. Perché io adesso, cioè, se voi steste davanti a me, il mio video davanti, 13:14, 13:45, 13:46, è il tempo che scorre, 13:48, 13:49, sono i secondi, sono. Io non posso collegarmi in un miliardesimo di picosecondo, non lo posso fare. Dice, noi, tu lo stai vedendo perché ricordati in quale paratempo ci siamo collegati. Stiamo in una frequenza assolutamente inaccessibile alla natura umana del viatore. Ecco perché lo vedi. Capito? Te lo dico con un'altra similitudine. Allo stesso modo che in una ripresa cinematografica, la pellicola va passando attraverso la cinepresa per ritrarre le immagini, così l'organismo dell'uomo, al modo di un lungo nastro di celluloide, qui parla delle pellicole ancora di un tempo, non certamente delle macchine digitali che girano adesso, va passando per la camera fotografica del momento presente, registrando per sempre ciò che è avvenuto in ogni spazio-tempo. Capite? È come un film che è come una proiezione continua. È come se noi stessimo continuamente sotto una webcam, d'accordo? Che registra tutto. Con questa sola differenza, che in questa grande realtà oggettiva non si tratta di fotografie, non è un film, ma ma della conservazione reale degli eventi. Niente sfugge e tutto perdura. Perciò puoi contemplare oggi lo spazio-tempo dei tuoi 8 anni di età. Potremmo definirlo un film reale. Gli assomiglia un po' forse quest'immagine. Ormai non ricordi con precisione ciò che facesti quest'oggi, 10 anni fa. Io mi ricordo manco l'ho fatto l'altro ieri. Immaginiamoci, no? Tuttavia, ciò non è stato soltanto conservato come in una registrazione. Quindi non è che tu ti rivedi un film, ma rimane vivente nel prodigioso archivio dell'eternità creata. Non è che tu semplicemente vedi un film, tu lo puoi rivivere. E vedremo che più avanti Teneramata dice, lo puoi rivivere e anche alterare. Come dire, manipolare, modificare. E come il film può essere proiettato in tante diverse occasioni, così il beato può contemplare qualunque scena del suo passato storico e di nuovo vivere, ma senza nessun dolore, attenzione, i fatti eternamente reali e viventi della propria storia, sia terrena che celeste. Questo ci dobbiamo fare in un quadretto. Ripeto, come il film può essere proiettato in tante diverse occasioni, così il beato, parla di beati qui, i dannati queste cose qui non le vivranno, può contemplare qualunque scena del suo passato storico e di nuovo vivere, ma senza nessun dolore, i fatti eternamente reali e viventi della propria vita, sia terrena che celeste. Ripeto, qui parla dei beati, dannati nisba di questa roba qui, eh. Poi ci arriveremo anche a questo. Tali esperienze redivive si ottengono in altre onde temporali, differenti da quelle già vissute. Questo lo potrai intravedere meglio quando ti descriverò un po' un'altra volta la sesta dimensione. Io sta descrizione della sesta dimensione, questo libro l'ho letto 5, 6, 7 volte. Adesso vediamo se con questa lettura più approfondita e commentata riuscirò, perché non ho colto, perché non mi sembra che procedendo, però potrei non ricordare bene, lei dice, adesso ti parlo della sesta dimensione, è questa. Probabilmente ne parla in qualche passaggio cercando di farlo capire, ma io non me ne sono tanto accorto. A occhio a me questa sesta dimensione mi sembra insomma assomigliare all'eternità increata, ma non ci metterei la mano, che è quella di Dio, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Ecco, vabbè. Quanto a te, poi, il tuo corpo è cambiato, ma solo rispetto all'istante attuale, fisicamente e sostanzialmente. Ricordiamo concetti già visti, no? Nell'arco di una vita si fanno almeno 7 cambi, in 50 anni di vita, ogni 7 anni c'è un ricambio praticamente integrale di tutte le nostre cellule. Tutte, eh? Quindi, cioè, il mio corpo oggi non ha le stesse cellule di quando ero bambino. Però la conformazione estetica del mio corpo è rimasta sostanzialmente immutata, no? Capiamo anche l'altro grande concetto filosofico che la Chiesa ha fatto proprio, no? Che l'anima è la forma del corpo, la forma sostanziale del corpo. Cambiato non la tua anima, essa cambia l'anima solamente in quanto che conosce. Prova e assapora le esperienze della vita. Dice Riccardo, e dice una grande cosa. Io mi sento il medesimo, sebbene il mio corpo sia modificato. Provate a pensare chi sta ascoltando. Vi sentite le stesse persone? Cioè, ti riconosci che sei tu in tutte le fasi della tua esistenza? La risposta generalmente dovrebbe essere sì. E come mai? Se ci sono stati tutti quanti questi cambiamenti? La madre risponde, ti senti il medesimo? Perché hai una sola Anima spirituale, libera, indivisibile e immortale, la quale ti ha animato da che eri una cellula uovo. L'anima viene infusa immediatamente. E l'anima che sta animando me adesso a 51 anni è la stessa e identica di quella che animava lo zigote, perché noi siamo stati tutti uno zigote, la cellula 1, due gameti. Questo insomma lo ricordo abbastanza bene, no? Due gameti si incontrano, dopodiché c'è la divisione dei cromosomi, metà maschili e metà femminili, e si formano, cioè la scissione, si formano da due gameti, uno zigote. Lo zigote è la nuova creatura, già con il patrimonio genetico stabilito dentro la cellula uovo, e già con l'anima. Ecco perché, attenzione, parentesi morale, peccato gravissimo, più di tutti quanti gli altri mezzi contraccettivi, l'uso della spirale. Perché la spirale non impedisce la concezione, quindi l'incontro tra i gameti. E tra l'altro una donna che porta la spirale potrebbe aver ammazzato, perché si tratta di ammazzare, non si sa quanti zigoti. Perché la spirale impedisce non la concezione, ma l'annidamento, ostruisce le tube. E quindi la cellula fecondata non può andarsi ad annidare nel posto suo e muore. E tu però non lo sai. Cioè, è come la pillola del giorno dopo. La pillola del giorno dopo però è più grave, perché chi prende la pillola del giorno dopo c'ha proprio come intento volontario, quindi di uccidere eventualmente un essere concepito. Magari se uno è ignorante, prende la spirale e la usa come strumento contraccettivo, non sapendo che quello strumento contraccettivo è in realtà non molto dissimile. Sostanzialmente dalla pillola del giorno dopo, perché la pillola del giorno dopo distrugge qualunque cellula che sia stata concepita e la spirale non la distrugge, ma la porta a morire perché ne impedisce l'annidamento. Quindi pensate che adesso in Francia vogliono scrivere che l'aborto bisogna metterlo tra i diritti, ecco, non so se costituzionalmente garantiti, ma di che cosa stiamo? Capite che significa una roba del genere, no? La cellula uovo c'ha già l'anima, quindi già una cellula d'uomo, altro che il grumo di cellule famose. E il fatto che tu non te lo ricordi, spero che abbiamo cominciato a imparare, a differenza della mi verrebbe da maledirla. Cioè, l'identificazione della persona con la sua coscienza è un frutto marcio della filosofia post-cartesiana. Cogito ergo sum è una delle stupidaggini più grandi che siano state dette nella storia della filosofia, eppure ha condizionato tutto il pensiero filosofico successivo. Noi oggi siamo figli di questo e tutti ci credono ancora. Se una persona, se uno ragionando dice: ma che problema c'è far secche un grumo di cellule? Tanto quello non è mica una persona, non capisce niente, non capisce, non sa neanche di esserci. Che cosa pensate di questo? La nostra anima non è la nostra autocoscienza. Ma questo non vuol dire che non ci sia. O il discorso dell'eutanasia, che è chiaro che era la cosa opposta. Ah, ci sta uno che ha preso l'Ambrogino lì a Milano, il grande fautore dell'eutanasia di Stato. Andate a leggere il libro di Gloria Polo, quello sarebbe un altro ciclo di catechesi molto interessanti, simile a questo. Perché questa descrive com'è l'aldilà, perché ci sta. Quella descrive l'esperienza dell'aldilà come una sorta di premorte. Date a leggere. Quando lei stava in coma, quindi completamente morta, d'accordo, apparentemente da un punto di vista cerebrale, d'accordo, quindi senza nessun tipo di coscienza, lei racconta che sentiva i medici che dicono: che facciamo? Stacchiamo la spina, quanto questa spina te la fa? E lei, che come racconta nel libro, stava alle soglie dell'inferno, pure se si pensava di essere una santarella, dice: per carità, che fate? Però non poteva comunicare. Ma lei sentiva tutto, vedeva tutto. Per cui noi pensiamo: ah, ma devo terminare, che problema c'è? Gli faccio una bella siringa, tanto non capisce niente. Non ci sta con la coscienza, gli faccio un favore. Sei sicuro che gli fai un favore? Ma come si permette questa gente qui di andare ad entrare in posti che non gli appartengono? Dietro l'eutanasia c'è la filosofia post-cartesiana, cioè l'uomo e il suo essere dipende dalla sua coscienza, dalla coscienza che ha di sé. Non è vero questo. Questa è una stupidaggine grossa quanto una casa. Non è cogito ergo sum, ma è sum ergo cogito. Cioè, non è che l'essere deriva dal pensiero. Cioè, io sono in quanto penso, ma quando penso io devo essere cosciente, perché se dormo non penso, sogno. Ma capite che significa una cosa del genere? Ma io penso in quanto sono, cioè il mio pensiero io posso pensare, perché ho l'anima. E perché ci sono. Ma il pensiero non esaurisce il mio essere uomo, perché io dormo e non è che quando dormo sono diventato un cavallo, sono sempre un uomo quando dormo. E così nel grembo di mia madre non ero un grumo di cellule, ero io. E se un giorno mi ritroverò in coma, in fin di vita, sono sempre io, so. Non è importante comprendere, come dice, l'eternità creata e i paratempi per andare in paradiso, ma queste cose però sì, eh. Allora, riprendo la lettura. Ti senti il medesimo perché è una sola anima spirituale libera e indivisibile che ha animato da che ti ha animato da che eri una cellula uovo, zigote. Da qui siamo partiti in questa piccola digressione, a mio avviso, opportuna e necessaria, anzi necessaria. Il tuo corpo di oggi si è logorato col peso dell'età, ma la tua anima si è arricchita spiritualmente con gli anni. Sembra di sentire San Paolo, no? Mentre il corpo interiore, l'uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova in continuazione. Non so voi, ma io ogni giorno che passa mi sento meglio. Perché mano a mano che si va avanti con i giorni, si acquista, si dovrebbe progredire, si dovrebbe migliorare, si acquista maggiore esperienza, si acquista maggiore conoscenza, si spera che si acquisti anche almeno un tanto così di maggiore tensione almeno verso la santità, ecco. Non diciamo cose troppo grosse, almeno per quanto mi riguarda, no? Il tuo essere è il medesimo, sebbene il tuo involucro corporale si sia totalmente cambiato in rapporto al momento presente, e sai già che non esistono modificazioni dal punto di vista della quinta dimensione. Tuttavia, sei mortale e vivi per adesso nel regime della fede e con la tua coscienza fortemente legata all'istante attuale. Orbene, la tua anima, attenzione, unifica vitalmente il tuo organismo totale, cioè il principio di unità di tutto ciò che sono stato, di tutti quanti gli stadi corporei che ho vissuto, è l'unica anima spirituale che dice: sono proprio io lì, il nome nuovo, quello che io sono nella mente di Dio, davanti a Dio, la funzione che ho per Lui, il tipo di amore che avrò in eterno per Lui e il tipo di amore che chiunque entrerà in contatto con me percepirà e vivrà solo da me. E dico da me, scusate, non voglio fare l'egocentrico, cioè dico da me, sostituitelo con il da me di te che mi stai ascoltando, è la stessa identica cosa. Quindi la tua anima unifica vitalmente il tuo organismo totale, ma siccome adesso ha bisogno del momento presente per collaborare col Signore a raggiungere il cielo, cioè noi adesso stiamo nell'incedere dell'istante attuale, perché è in questo istante attuale, mano a mano che scorre, che Dio vuole che tu cooperi con Lui e te lo guadagni il cielo. E lo raggiunga, perché non ci vanno tutti in paradiso, a godere di queste cose così grandi, ma non è che ci vanno tutti quanti. Ci va chi se l'ha meritato. Fermo evidentemente restando il primato della grazia, la salvezza che ci ha dato nostro Signore, se no non ci andava nessuno. Ha bisogno del momento presente per collaborare col Signore e raggiungere il cielo. Quindi avviene che il tuo spirito, però, frattanto, vivifica i tuoi corpi attraverso gli spazi-tempi che hai vissuto, benché tu non te ne sia accorto. Ecco perché ti è fattibile oggi contemplare il tuo organismo vivo di bambino. E ancora Riccardo, ma perché non riesco a comprendere questa eternità creata? Non ci riesce. Perché la tua coscienza, gli ripeto, non ha avuto ancora l'occasione di viverla pienamente, soltanto oggi la intravedi. Per lui era una novità, vedendo il tuo corpo infantile, ma la tua anima la conosce assai bene, come conosce a fondo le tue funzioni biologiche. Allora, devo fare per forza un altro step, non fa niente se non riusciamo a... Cioè, capite che cosa sta dicendo? Di nuovo stiamo... Allora, lui, con la sua intelligenza attuale, con il suo raziocinio, anche con il suo bagaglio culturale, che non è indifferente, cioè se tipo... Io non riesco a capire. Allora dice, tu non riesci a capire, ma la tua anima capisce. La tua anima la conosce assai bene, gli ha detto lei. Così come conosce a fondo le tue funzioni biologiche, scusate un attimo, no? Ma che tutti quanti quelli che ascoltano sanno perfettamente, saprebbero spiegare per filo e per segno come avviene per esempio il processo dell'assimilazione e della digestione. Vi ricordate tutto quello che avete studiato a scuola? O esattamente tutte le altre leggi di circolazione del sangue, cioè i movimenti di sistole, di diastole, cioè, tutto, tutto. Ora uno può anche imparare tutte queste cose qui, deve studiare una vita e se ne impara. Ma scusate un attimo, prima che te le sei imparate, non funzionano queste cose, ma certo che funzionano, funzionano da sole, funzionano, vanno da sole, vanno secondo la nostra testa. Ora, gli scienziati, metto virgolette, no? Gli scienziati con l'H, pensano che queste cose siano semplicemente funzioni biologiche, cioè che gli organi da soli facciano queste operazioni per i loro non si sa quali meccanismi. Non funziona così, eh. Tutto quello che avviene dentro di noi, c'è un direttore, un organizzatore e un esecutore, che è l'anima. Il cuore batte perché l'anima lo fa battere. Tu digerisci perché è l'anima che ti fa digerire. Il cuore aumenta i battiti cardiaci perché è l'anima che ci pensa a regolare i battiti o a diminuirli, per esempio, quando noi dormiamo, in base a quello che è il tuo fabbisogno. Quindi l'anima, la tua anima, tu. O meglio, la tua anima sa delle cose che tu non sai, che la tua coscienza, che la tua intelligenza, che la tua cultura non ha, non le sa. Quindi non c'è coincidenza tra coscienza, vita cosciente e anima, non c'è. Applichiamo questa cosa ai sacramenti, cioè tu ti può capitare che un giorno, per esempio, no, noi sappiamo che dobbiamo prepararci bene ai sacramenti. Perché? Perché dobbiamo fare in modo, per quanto possibile, che la nostra sfera cosciente partecipi e possa trarre il massimo dei frutti dal sacramento. Ma il sacramento insegna la Chiesa, opera ex opere operato. Cioè, se tu ti vai a fare una comunione, noi non dobbiamo fare le comunioni scellerate, mai. Però se un giorno, che ne so, Sei arrivato a messa all'ultimo momento perché hai trovato traffico, quindi non è una tua negligenza. Sei stanco morto, sei distrutto, quindi partecipi a fare la comunione, ma sei distrutto. E quindi non ci stai tanto con la testa, e quindi non riesci a fare un gran ringraziamento perché se non ci stiamo tanto con la testa, che siamo distrutti, non ce la facciamo. Dici, allora era meglio che non me la facessi questa comunione. No, no. Quella comunione fa bene comunque alla tua anima. Capite? Fa bene comunque. Noi non possiamo vedere gli effetti profondi, per esempio anche dei sacramenti, sulla nostra anima in quanto anima. Capite? Io spero che riusciamo a, a capire. La nostra coscienza, come dire, segue le nostre tappe di sviluppo, ma la tua anima. La mia sta animando ora, adesso, il mio corpo di quando avevo 3 anni. Adesso, perché è il principio unificante di tutti i miei stati temporali. Mi sta animando adesso a 51 anni, ma anche a 50, 49, 48, 47, 46, fino ad arrivare alla cellula uovo. E ogni istante. Riprendo, la tua anima la conosce assai bene, come conosce a fondo le tue funzioni biologiche. Cioè, perdonatemi, capiamo che cosa, quanto, che cosa grande che è la nostra anima. Che cosa grande. Capiamo anche perché la nostra anima è stata affidata alla nostra custodia. Quando si muore, io non mi stancherò mai di dirlo, è stata scritta tutte quelle stupidaggini che scrivono, la più grossa è volato al cielo, è tornato alla casa del padre. Chi te l'ha detto che è volato al cielo, che è tornato alla casa del padre? Se è morto martire si può scrivere una cosa del genere, ma chi te l'ha detto che è volato al cielo, è tornato alla casa del padre? C'è il filo diretto col Padre Eterno? Chi te l'ha detto? Oppure le frasi un pochino, come dire, smielose umane, è venuto a mancare all'affetto dei propri cari. Sì, per carità, è vero, cioè, nessuno vuole misconoscere il dolore della perdita di una persona cara. Ma la cosa che succede con la morte è ha reso l'anima a Dio. Che ci hai fatto tu con la tua anima? Come l'hai trattata? Cosa le hai dato? L'anima ci dà tutto. Sapete l'anima di che cosa ha bisogno? Della grazia di Dio. Più di quanto il tuo corpo c'ha bisogno dell'aria che respiri. Tutto quello che deve fare l'anima lo fa anche, cioè che presiedere alle tue funzioni biologiche, lo fa anche senza la grazia di Dio. Ma attenzione, in paradiso senza grazia di Dio non ci si entra. E la grazia di Dio l'anima non se la va a prendere da sola, come presiede le funzioni biologiche e conosce l'eternità creata. No, gliela devi dare tu con la tua attività cosciente. Riprendo. La tua anima la conosce assai bene, l'eternità creata, come conosce a fondo le tue funzioni biologiche. E qualcosa dell'eternità creata sa già la tua coscienza, per esempio le idee astratte e i primi principi della scienza. Qui dovrei fare un'altra sosta. Tutto ciò imbevuto di eternità, come pure la conoscenza del proprio io personale, indipendente dagli spazi e tempi materiali. Perché proviene dall'essenza dell'anima spirituale. Mi sa che devo fare un altro stop perché forse potrebbe non essere chiaro. Arrivo al punto. Quando stai ad ammirare o ad amare intensamente, non senti passare le ore. È come se tu gustassi in anticipo la pace senza tramonto della quinta dimensione. Allora, le idee astratte e i primi principi della scienza. Prendiamo i principi base della logica, no? Il principio di identità, per esempio, è di non contraddizione. Allora, prendiamo questa cosa qui. Tutti quanti noi, anche se siamo ignoranti, perché questi sono principi che noi semplicemente quando ce li raccontano riconosciamo che sono già dentro di noi. Non c'è bisogno di apprenderli a scuola, d'accordo? Perché la nostra testa funziona così. Se io ho in mano questo rosarietto, allora questo è un rosario. Io non posso dire allo stesso tempo questo è un rosario e questo è un bicchiere. Perché non si può dire astraendo questo è A e questo è non A. Non è possibile. E così, secondo principio, il principio di non contraddizione, io non posso affermare di una stessa cosa, nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto, due cose differenti. E questo è un principio un pochino più raffinato, no? Perché a volte ci sono le contraddizioni apparenti. D'accordo? Cioè, io non posso affermare di questa cosa che è un rosario e che è ferro. Attenzione. Però la catena di questo rosario, prima che venisse fabbricato, era ferro. D'accordo? Per cui se io dico che questo è ferro, ma non intendo dire che è ferro adesso, che è stato forgiato come catena del rosario, ma faccio riferimento al fatto che lo era prima di esserlo, non sto violando il principio di non contraddizione. Spero di essere stato chiaro, insomma, no? Così come i principi fondamentali della geometria euclidea, per esempio, no? Cioè che per un punto passano infinite rette, questo lo capisce anche un bambino, lo capisce, lo capivamo anche da piccoli alle scuole elementari, o che due rette parallele non si incontrano mai. Quindi capiamo attraverso queste cose che c'è qualche cosa di grande, di immutabile, no? Di trascendente. Come pure dice la conoscenza del proprio io personale, indipendente. Cioè, gustatelo un pochino, cioè, ogni tanto. Chi sei tu? Ti conosci un po', in una maniera il più oggettiva possibile. Cioè la percezione che noi abbiamo di noi stessi, no? Del nostro essere profondo. Quando un'anima è un pochino riconciliata, qui bisogna andare a risentire le catechesi dal non senso alla vita di cielo, o per chi gli piace l'antico un po' più intraprendente, chi sono io per poter amare, queste sono le catechesi storiche, perché per vivere bene questa cosa bisogna avere un'esistenza un pochino riconciliata, perché se una persona sta arrabbiata con mezzo mondo, sta depressa, sta messa male, non ha una percezione positiva del proprio io, ma la percezione del nostro io deve essere positiva, cioè se sentirsi a proprio agio con noi stessi, ma senza essere superbi, arroganti, cioè io non è che sono meglio o peggio di qualcun altro, sono semplicemente io. Con le mie dotazioni e con i miei difetti, cioè la percezione del proprio io personale, indipendente dagli spazi materiali, è una percezione sana, realistica. Percezione di qualità e percezione chiarissima di limiti e di miserie. Quando si riesce a stare in questo status, tra l'altro, che te ne dicano un sacco e una sporta a livello negativo, o che ti facciano lodi e sviolinamenti vari, ti scivola addosso, non te va né caldo né freddo. Non c'è pericolo né di deprimersi, né di umiliarsi, né di esaltarsi, scusate. Né caldo né freddo. Ancora, quando stai ad ammirare, è qui. Imparare uno spirito contemplativo. I classici luoghi di vacanza, no? Le montagne, d'inverno o d'estate, quando uno si perde a vedere l'insieme o i dettagli, i particolari, nella loro diversità, no? I colori dei fiori, degli alberi, d'estate, la bellezza dei monti, d'inverno chi ha la grazia di poterlo, la neve, d'accordo? E il mare, se tu ti metti non semplicemente a, ma dici stop, adesso mi sto fare una passeggiata, butta l'orologio, me la godo, perdi la percezione del tempo. E in questa contemplazione hai una percezione dell'infinito, così come quando si ama intensamente. Quando si ama intensamente non passano le ore. Chi è stato innamorato lo sa. Cioè, non passano mai. Cioè, allora, quando uno è innamorato follemente, quando sta con l'amato, il tempo vola, d'accordo? Dice, e quando l'amato non c'è, il tempo non passa mai. È chiaro che per capire l'eternità creata dobbiamo fare riferimento a quando stiamo con l'amato. Cioè, ha fatto che il tempo vola e che si perde la percezione del tempo, no? Per cui, quando noi stiamo bene con qualcuno, vorremmo starci sempre, perché il tempo vola. Pensino marito e moglie, quanto devono essere felici di stare sempre insieme e che non deve, cioè, il tempo deve sempre volare. Non c'è niente di più bello, proprio attendere quando si rivedono, quando stanno insieme, eccetera, eccetera. Vabbè. Chiudiamo queste parentesi, no? Comunque, tutte queste cose sono percezioni anticipate della quinta dimensione. Perché? Perché nella quinta dimensione si gusta una pace senza tramonto, un benessere profondo. Qui Tenera Amata non lo dice, posso aggiungerne una io, eh. Ecco, mi permetto, guarda, faccio proprio l'insolente. Quando arriva un pochino di divina volontà nella nostra anima, succede qualcosa di simile lo stesso. Perché quella pace profonda, proprio quel senso di benessere profondo che si avverte, non è una cosa umana. Ed è una cosa veramente stupenda, meravigliosa. Abbiamo ancora un po' di tempo, andiamo un pochino avanti. Perché devo vivere con la mia coscienza soggetta all'inesorabile gioco del momento presente? Attenzione, per la tua condizione di viatore su questa terra. Noi siamo in via qui. E perché stai appena meritando la vita celeste, due volte già che lo dice, mediante la tua fede. E le opere di la fede, amici miei. Il giusto vive di fede. La fede è la cosa più importante che abbiamo nella nostra esistenza. E orienta tutta la nostra vita, tutte le nostre scelte quando è viva. E le opere di carità, attenzione, le opere di carità non è soltanto fare l'elemosina ai bisognosi, bisogna farle le elemosine ai bisognosi, per carità. Ma le opere prime di carità sono quelle che si fanno nei confronti di nostro Signore. È l'adempimento del primo comandamento, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Poi c'è il secondo, per carità, che bisogna fare anche il secondo. Insisto su queste cose perché oggi pensano tutti solo ad alcune cose del secondo, d'accordo? Perché il secondo è, come dire, i poveri, che ne so, i migranti, che caspita ne so, adesso le popolazioni in guerra, per carità, tutte tante cose che vanno bene, d'accordo? Però magari poi c'hai tuo padre o tua madre che hanno bisogno di te, o tuo fratello con cui non te parli, a quello vabbè, tanto io vado a fare volontariato alla Caritas, che se non parlo con mio fratello chi se ne importa, no? Quindi, tanto per fare un esempio. Uè, d'accordo? Oppure vado in giro a fare volontariato alla mensa della Caritas e poi trovo a casa mia moglie o mio marito che mi mandano gli accidenti perché non sto mai con loro, per dire, no? Ecco. Comprendere l'eternità creata è già godere il cielo. Yep. Vero. E perché non sono capace di conoscere bene almeno la quarta dimensione o il tempo? Abbiamo visto, no? Le prime tre dimensioni sono lo spazio, no? Altezza, lunghezza, larghezza e profondità. La quarta dimensione è il tempo, che abbiamo imparato però che scorre insieme allo spazio. La quinta è l'eternità creata. Dice, ma insomma, noi non, non, Passiamo alla quarta, che io non capisco neanche bene il tempo. Abbiamo già visto la volta scorsa, se uno studia la filosofia, vedrà quante pagine sono state scritte sul mistero del tempo. Che cos'è profondamente il tempo? Allora, risposta, notiamo che questa risposta è dell'armata. Perché non ne hai bisogno per lottare per raggiungere la beatitudine, che è la cosa veramente necessaria in questa vita mortale? Non ti sta a preoccupare troppo. Sti regali che ti sto facendo, chiappa quello che riesci. Quello che non riesci, lascialo perdere. Perché tanto non è necessario. Ricorda sempre che l'unica cosa necessaria è lottare per raggiungere la beatitudine. Il Creatore ha rivelato tutto quello che è essenziale per raggiungere la vita futura nell'attuale regime della fede, ma non è entrato in più ampie spiegazioni perché non sono necessarie per ottenere l'ultimo fine. Quante volte lo ripeto a quante persone che mi fanno un sacco di domande, dico: ma senti un po', non lo so, ma queste cose qui non te le ambicca il cervello, tanto non servono qui. Se il Signore te le dovesse illuminare, ringrazialo. Se qualcuno ti dovesse fare luce, ringrazialo. Ma non ti sta a scervellare, tanto le vedrai dall'altra parte. Adesso tu devi pensare, diventa santo, devi aggiungere, perché se non diventi santo, queste cose non le saprai nemmeno dopo. Tuttavia, lui rispetta il Signore, i lavori di investigazione scientifica dei suoi amati figli mortali. E per onorare l'intelligenza che egli stesso ha concesso loro, potrebbe anche darsi che in futuro conceda loro di viaggiare attraverso il tempo ed affacciarsi alla quinta dimensione. Voi udite, udite. Onorare l'intelligenza che egli stesso ha concesso loro. A Dio la onora l'intelligenza che ha concesso alle creature. Siamo noi che molte volte non ce la onoriamo da solo l'intelligenza e che facciamo gli stupidi senza esserlo. Nella gloria eterna, quando l'Onnipotente vuole farci conoscere un fatto storico, non ha bisogno di raccontarcelo, né di farcelo vedere in una sala cinematografica. Gli basta situarci negli spazi-tempi che corrispondono a quell'evento. E non soffriamo nessuna molestia, perché siamo ormai glorificati, né alteriamo l'avvenimento storico, già che resta immutabile nella quinta dimensione. E se non vi piace quello che state contemplando, allora passiamo ad un altro episodio, sia terrestre, attenzione, sia di qualsiasi altro luogo dell'infinito universo. E per questo basta che vogliamo farlo. E senza dover pensare molto, perché il nostro Dio sta molto attento a suggerirci il meglio. Capite? I trailers delle cose belle da vedere, quando andremo dall'altra parte, ci rimanda direttamente il nostro Signore, perché dice: ma che gli piacerà a Don Leonardo di vedersi adesso in questo momento qui? Gli piace questo? Ma glielo suggerisco io. Poi lui esprime il desiderio di farlo, immediatamente, appena espresso, già è pronto. Tanta roba, eh? Questo è quello che sta dicendo Tenera Amata, non me lo sto inventando io, eh? Dice: meraviglioso, dice Riccardo. Voi contemplate la storia del cosmo come noi la televisione, altro che televisione, e potete perfino cambiare di canale. La televisione ci aiuta un pochino a capire qualcosa di queste cose, in maniera evidentemente molto pallida, no? Ciò che mi lascia perplesso, però, ancora ritorna sempre lì, è contemplare il mio proprio corpo infantile. E lei ribatte: è che dai eccessiva importanza al momento presente e non la dai al passato. La storia non esiste soltanto nella memoria, nei libri, nei filmati e nei computer. Essa perdura vivente senza termine nell'ambito dell'eternità creata. Con tutto ciò, però, non si parla della quinta dimensione o eternità creata. Lei dice: è una conoscenza moderna che non si è divulgata. Nella tua memoria vedo anche con molto disordine che le recenti teorie logico-matematiche della relatività affermano, senza comprovazione sperimentale, che il mondo oggettivo della realtà vale molto di più che la sua percezione nel momento presente. Abbraccia tutta la storia dell'universo fin dalla sua creazione e perpetua esistenza. Nella tua memoria hai ben impressa questa nozione. Il mondo oggettivo della realtà non accade, non passa e non si annienta, semplicemente esiste, perché partecipa evidentemente al livello creato di quell'attributo particolare di Dio che è l'avere l'essere. Io sono colui che sono. Vedete, solo il nostro Dio può abbracciarlo in tutta la sua imponente maestà. Dio lo possiede tutto ciò che è, lo controlla tutto, simultaneamente. Al di là dei confini del tempo e dello spazio, come si intitola quest'opera qui. Cioè, ma ci rendiamo conto che cosa significa? Cioè, chi è il nostro Dio? Cioè, che immensità, che potenza, che grandezza, che maestà. Tutto ciò è molto vero, malgrado questa conoscenza non sia ancora generalizzata. Indubbiamente la realtà del cosmo deve includere, oltre a ciò che accade nell'istante attuale, l'accumulazione ordinata e cronologica di tutti gli atti realizzati durante l'esistenza dell'essere. Quindi, chi ha letto la memoria e delle conoscenze delle teorie logico-matematiche della relatività, io qui balbetto, quindi rileggendo capiamo qualcosa, no? Che affermano senza comprovazione sperimentale, quindi non lo possono sperimentare, che il mondo oggettivo della realtà, quello grande, vale molto più che la sua percezione nel momento presente. Questo ci si arriva, no? Abbraccia tutta la storia dell'universo fin dalla sua creazione e in perpetua esistenza. Riusciamo a leggere un altro paio di passaggi. Perché mi dicevi che la nozione del passato è reale? Perché l'idea del passato è puramente soggettiva. Non corrisponde alla maestosa ed eterna realtà universale. Se ciò che è avvenuto non sia niente, è falso che sia ormai passato. Capiamo quello che sta dicendo. Il passato lo percepiamo qui, fin quando siamo viatori, fin quando siamo legati all'istante attuale. Ma se ciò che è avvenuto non si annienta, continua quindi a sussistere nell'eternità creata, non lo si può correttamente definire passato, perché passato è una cosa che era e non è più. Ma non funziona così. Perché non si è vista sperimentalmente l'esistenza di questa quinta dimensione? Ultima, dopo ci fermiamo, ci metto un segno, se no poi non me lo ricordo. Scusate. Perché gli scienziati hanno il loro potere di attuare legato fortemente al momento presente, pure loro. Osservano e modificano le cose soltanto dall'attimo dell'istante attuale. Non sono capaci di guardare, meno ancora di alterare i fatti del passato, i quali però perdurano intatti e viventi nel modo preciso come accadono. Ciò nonostante, l'anima spirituale intelligentissima di questi saggi consente loro di elucubrare e di esprimere matematicamente le loro conclusioni, le quali in questo argomento si trovano d'accordo con la rivelazione divina. Non commento perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, la prossima volta ci ricolleghiamo da qui e andiamo avanti con questo capitolo che è quasi, diciamo, 60%, ma ancora c'è qualche piccola sorpresina da riservarci. Appuntamento alla prossima puntata, amici cari, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga.